GR24 Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Niente Manchester City, Riccardo Kakà resta al Milan. Ieri sera il colpo di scena decisivo, sentiamo. Riccardo Kakà rimane al Milan, quando sembrava ormai fatto è stato Silvio Berlusconi in persona a opporsi alla cessione del brasiliano. Sono veramente felice di avere mantenuto Kakà al Milan e di avere in Kakà non soltanto un grande campione ma un grande uomo. Sembrava decisivo lo sbarco a Milano in mattinata del padre procuratore Bosco Isaacson Leite, che dopo essersi chiarito con il figlio ha incontrato Gagliani. Nel pomeriggio di ieri ha raggiunto il luogo del vertice Gary Cook, direttore operativo del Manchester City, per dare via all'accelerazione finale della trattativa. Trattativa che si è protratta fino alle ore 22, quando è stato il presidente in persona a rifiutare i 120 milioni del Manchester City. Fondamentale è stato Kakà, che ha anteposto il suo amore per il Milan ai 15 milioni annui degli inglesi. Il giocatore ha salutato i tifosi presenti sotto casa sua lanciando loro una sua maglietta. Tifosi che nel pomeriggio avevano dato vita a una manifestazione di protesta in via Turati. Cristiano Luglio, GR24, Sole 24 Ore. L'altra metà di Milano, quella interista, fa i conti col momentaccio della capolista dopo il KO di Bergamo in campionato. Il presidente nerazzurro Massimo Moratti. Mi è sembrato da salvare il ritorno di un buon ritorno di Adriano, mi è sembrato. Ha fatto bene la sua parte. Può fare di più, questo è chiaro, però insomma mi è sembrato che avesse fatto bene. È assurdo tornare sul mercato. O hai 22 giocatori che sono schiappe, o è assurdo tornare sul mercato. È stata la partita a sé, è stata brutta, giocata molto male, non credo che abbia presupposti nelle altre partite. Buone notizie intanto per la Roma, che sarà proprio la prossima avversaria dell'Inter domani sera a San Siro nei quarti di Coppa Italia. Francesco Totti recupera tempo di record dal recente infortunio muscolare e potrebbe tornare in campo già domenica contro il Napoli. E ieri a Milano l'asso calciatore ha assegnato gli Oscar del calcio 2008. Alessandro Del Piero, miglior giocatore italiano, Zlatan Ibrahimovic, miglior straniero e Cesare Prandelli, miglior allenatore. In Serie B Frosinone batte Grosseto per 2-0 nel posticipo della 21esima giornata. Per la Formula 1 primi 54 giri per Raikkonen al volante della nuova Ferrari F60 al Mugello. Ieri presentate anche le nuove Williams e Renault. Nel team francese tiene sempre banco il caso Alonso, che voci di mercato danno vicino a Maranello. Flavio Briatore, manager della squadra transalpina. È un pilota nostro e basta, cioè finita lì. Poi anche per rispetto ad altri piloti che sono altri team col contratto, mi sembra che sia veramente una stupidaggine parlare di cose che non esistono. L'Iberico intanto sogna un 2009 da protagonista. Tutti gli anni sono decisivi, ma anche l'anno scorso quando si andava abbastanza male a metà campionato, alla fine ho rimasto in Renault. Una cosa è sempre andare bene o andare male, ma altra cosa è decidere dove puoi andare e dove pensi che è meglio andare. Quindi adesso contento, cercare di vincere il titolo 2009. E ora il basket, sorteggiati i gironi della seconda fase di Eurolega. Siena sfiderà i detentori del titolo europeo del CSKA a Mosca, il Fenerbahce Istanbul e il Cibona Zagabria. Per Milano, Tau Vittoria, Olympiakos Atene e i polacchi del Procom. A Roma è toccato il girone più duro, coi greci del Panathinaikos, Malaga e il Partizan Belgrado. Il team manager dei capitolini, Bodiroga. Abbiamo fatto una buona stagione regolare, abbiamo incontrato squadre forti e credo che vogliamo fare bene. Cercheremo di fare il meglio possibile in questa top 16 e di cercare le nostre chance. E chiudiamo col tennis, scattati a Melbourne gli Australian Open. Tra gli azzurri al secondo turno Bolelli, eliminati Starace, Stoppini e Seppi, quest'ultimo da Federer. Tra le donne bella impresa della Errani, che ha eliminato la russa Kirilenko, numero 27 al mondo. E per lo sport è tutto.